GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. È stato braccio di ferro fino all'ultimo centesimo col Barcellona, ma oggi sarà il primo giorno di Ronaldinho in rossonero. Sentiamo. Finalmente Ronaldinho è un giocatore del Milan. Dopo due anni di attese, offerte, smentite, polemiche, il brasiliano vestirà la maglia rossonera per 3 anni di contratto a 6,5 milioni di euro a stagione. Ieri c'è stata la svolta definitiva nella trattativa con il pranzo tra Galliani e Laporta, anche se rimangono alcuni dettagli da regolare. Il prezzo definitivo del brasiliano si è attestato sui 18,5 milioni di euro, più eventuali incentivi legati al rendimento del giocatore e di squadra. L'ex pallone d'oro sbarcherà stamattina presto con un volo privato a Milano. Sosterrà le visite mediche e a mezzogiorno sarà presente al raduno del Milan in mezzo a 12,000 tifosi in festa. Raduno al quale non mancherà nemmeno il presidente Berlusconi, che con un ultimo sforzo economico ha deciso di superare l'ultimo ostacolo per l'ingaggio del brasiliano. Cristiano Luglio, GR24, Sole 24 Ore. Intanto dalla Spagna arriva anche il nome dell'erede di Luis Aragonés sulla panchina della nazionale campione d'Europa. Sarà Vicente del Bosque, ex tecnico del Real Madrid. Alle mosse di mercato del Milan risponde l'Inter campione d'Italia, che insegue Quaresma e ieri ha presentato l'ex romanista Mancini, voluto da Mourinho. Il fatto che a lui piace giocare così è un schema che è favorevole a me, perché il mio modo di giocare è quello, giocare esternamente sulla fascia del campo, quindi speriamo di fare delle belle cose e dare il nostro contributo all'Inter. In casa Juventus invece, amichevole con il Piacenza, è primo stop stagionale. I bianconeri di Ranieri sono stati superati per 1-0 dai piacentini a Trento grazie a un gol di Simon alla mezz'ora. E ora è il Tour de France che dopo il giorno di riposo riprende la sua corsa verso Parigi. Oggi 11ª tappa da Lannemezan a Foix di 167 km. Dopo il giorno di riposo ieri a Pau, oggi il Tour riprende il proprio cammino verso le Alpi che attendono la carovana per il fine settimana. Tappa nervosa per attaccanti con due salite di terza categoria e una di prima, il Col del Portello, un inedito per il Tour. In maglia gialla l'australiano Cadel Evans, che per il secondo giorno guarda tutti dall'alto in basso. In basso di un solo secondo il lussemburghese Frank Schleck. Ricossi gode le sue giornate di gloria e oggi porterà in giro la maglia Pua di miglior scalatore del Tour, mentre quella bianca di miglior giovane, sempre di Ricò, oggi sarà vestita dal siciliano Vincenzo Nibali, secondo nella speciale classifica alle spalle del modenese, simbolo della giovane Italia sulle strade di Francia. Su stadio Giro 24 e Sole 24 Ore, Lannemezan. In Formula 1 la Ferrari punta al Gran Premio di Germania per rifarsi dopo le delusioni di Silverstone. Il direttore della gestione sportiva di Maranello, Stefano Domenicali. Dopo gare così difficili, inutile negarlo, come quella di Silverstone, l'importante è reagire, individuare i problemi, ma d'altra parte anche proteggere, fare scudo, mantenere la calma, evitare il panico, perché sono elementi questi che se poi entrano e subentrano in una squadra come la nostra potrebbero essere devastanti. Per il moto mondiale Daniel Pedrosa correrà domenica il Gran Premio degli Stati Uniti a Laguna Seca. Lo spagnolo è stato operato ieri al polso destro, fratturato in seguito alla caduta di domenica scorsa sotto la pioggia del Gran Premio di Germania. E chiudiamo seguendo il cammino azzurro verso Pechino 2008. Ieri presentata la nazionale di tiro a segno, a Radio 24 Valentina Turisini, argento ad Atene 2004 nella carabina femminile. Quest'anno andiamo a Pechino con una squadra di 7 persone, che è un record per la nostra federazione. La squadra è sicuramente competitiva, ci sono alcuni ragazzi, un paio di ragazzi molto giovani e altri atleti di esperienza che anche nelle ultime gare si sono dimostrati molto molto in forma. Diciamo che le premesse sono buone. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.